avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Io penso ci sia un numero considerevole di miei amici, conoscenti, ma anche semplicemente ascoltatori, che si senta fiero di potersi definire digitale o digitalmente avanzato o digitalmente alfabetizzato. Questo a me fa molto piacere, ma vorrei questa mattina fare un punto su cosa realmente significhi essere digitali. Vi faccio qualche piccolo esempio, avendo ormai portato questi microfoni ogni forma di paradosso. Sapete quanto mi diverte lavorare e giocare con paradossi. Ho detto, ma ne sono profondamente convinto, che potremmo definirci realmente, concretamente digitali, non semplicemente essere digitalizzati, quando avremo tutti gli strumenti anche di elaborazione di ciò che più ci atterrisce, come appunto il senso della morte, il senso della fine, attraverso uno strumento digitale. Ripeto, è un paradosso in cui mi piace ripetermi, che quando aboliremo i cimiteri, quando penseremo che il senso della nostra esistenza, oltre che appoggiarsi su speranze, su atti di fede, su credenze giustificate o pienamente legittime in vite al di fuori, diciamo, del nostro condizionamento spazio-temporale, perlomeno come noi le conosciamo, probabili o immaginabili al di là, ma penseremo che in realtà avrà un senso aver vissuto se lasceremo una traccia di ciò che abbiamo visto, pensato, di ogni nostra memoria, se insomma noi saremo un tassello di un grande libro infinito che si scrive appunto attraverso i linguaggi digitali. Questo potremmo cominciare a farlo ogni momento della nostra giornata. Abbiamo già gli strumenti a disposizione, ma non ci interessa. Molte volte siamo molto più attratti dall'oggetto, dal gadget, dallo strumento. L'essere digitali significa frequentare alcuni oggetti che ci permettono di giocare, ci permettono di impiegare il nostro tempo. Essere digitali significa fare degli atti di fede, sperare che arrivi un domani una banda larghissima, potentissima, che ci permetta di evolverci, ma probabilmente se anche avessimo un'autostrada su cui le informazioni potessero viaggiare a velocità inimmaginabili, continueremo a fare quello che sempre facciamo la sera. Ci mettiamo davanti a YouTube, nella migliore delle ipotesi, o davanti a YouPorn, in un'altra ipotesi che non giudico assolutamente detestabile. L'esercizio cyberamanuense fa parte delle lecite possibilità che ognuno ha di esprimersi, ma non è soltanto questo l'essere digitali. L'essere digitali è cominciare a comprendere la trasformazione di un mondo concreto fatto di oggetti pesanti, fatto di ritualità, fatto di liturgie, in un mondo alternativo. Saremo digitali quando avremo abbattuto ogni senso liturgico e ogni credenza metafisica nel supporto libro. Perché mio figlio va a scuola la mattina con uno zaino di 20 kg? Perché se andasse con un suo tablet, qui c'è tutto ciò che a lui serve, tutto ciò che può consultare, metterebbe in crisi un sistema liturgico che dà giustificazione ai suoi insegnanti, che sono coloro che hanno tangibilmente la conoscenza di quei libri, che decidono ogni anno perché quel libro invece che un altro libro, che hanno controllo di quel tipo di supporto. Su altri supporti impalpabili sentirebbero persi, cadrebbe la loro funzione sacerdotale. Quindi vedete, secondo me l'essere digitali è un cambiamento piuttosto radicale. Poi vedo molte ingenuità nel trattare il mondo digitale, ancora è qualcosa che viene ammantato quasi di un contenuto che trascende la sua reale funzione di oggetto di semplificazione, di velocizzazione, di razionalizzazione del nostro pensiero, di espansione delle nostre possibilità. Ieri parlammo della guerra con la Libia, già demolimmo la fiducia che molti avevano di questi messaggini su Twitter che fanno tanto fighetto metterli sui giornali, che danno tanto l'idea di informazione alternativa. Parlammo delle vecchie antiche trasmissioni ad onde corte, un nostro amico radioamatore ci disse che aveva ascoltato un aereo che lanciava verso la Libia messaggi in codice che dicevano praticamente smettete di fare resistenza, se no vi stermineremo tutti. Sembrava una stupidaggine, ma nel pomeriggio questa banalità detta da un nostro amico radioamatore è diventata una notizia d'agenzia. Oggi Zucconi su Repubblica ci fa una pagina intera sul messaggio che lancia onde radio verso appunto i libici. Altra notizia oggi sempre sul Corriere della Sera, una pagina intera dedicata alle città troppo affollate di Facebook. Venne dato corpo, esistenza a uno studio, una ricerca fatta da un sito, quindi un sito mette dei dati e diventa improvvisamente oggetto di riflessione. Hanno scoperto che rispetto all'anagrafe reale concreta di molte città del mondo, prendo ad esempio Roma, i corrispondenti iscritti a Facebook sono molti di più. A Roma, nella Roma di Facebook ci sono 4.306.000 residenti, invece l'anagrafe del comune ne fa 2.864.000. Ci sono quasi 1.500.000 di abitanti fantasmi a Roma, e su questo si interrogano tutti, ma è chiaro, tutti i burini, tutti i coatti, tutti quelli che abitano nella periferia, i laziali o quelli che semplicemente stanno nelle remote cittadine del Lazio, scrivono che stanno a Roma per fare i fighi, per fare quelli che comunque abitano nella capitale. Questo non accade soltanto a Roma, ma accade nelle maggiori capitali del mondo, ma è un normale velleitarismo, è un normale desiderio di autocostruirsi un'esistenza mitica attraverso la rete. Fa anche per questo parte dell'essere digitali? Beh, questa mattina la domanda è: vi sentite digitali? Ambite ad essere digitali? Cosa significa per voi diventare finalmente uomini digitali? 800 24 00 24. Anna, vieni, pronto. Giovanna, non ne posso più, staccati da quel computer. Sto lavorando. Stai lavorando? Amore, tu ti sei bruciata il cervello con queste stronzate. Amore, ascolta. Non hai più una vita. Non abbiamo più una vita. Passi tutti i tuoi giorni a farti gli affari degli altri, a scrivere idiozie su bacheche di gente che nemmeno conosci. E poi che cazzo ci avete mai da dirvi uno con l'altro che state tutto il giorno davanti al computer? Io ho sposato una ritardata. Cosa hai detto? Che io ho sposato una ritardata. Questo era uno degli episodi di un film di cui si è poco parlato, ma abbastanza implacabile e spietato nel raccontare la nostra realtà, la nostra lettura delle esseri digitali, è Facebook, un film del 2009 diviso in episodi che spiega appunto qual è il nostro atteggiamento verso questa impalpabile dimensione delle esseri digitali. La dipendente da Facebook passa tutta la giornata ad abbellire il suo profilo, a mettere le sue foto, a scambiarsi impressioni, a scambiarsi pareri con i suoi amici. Nulla di detestabile. Crea comunque un apparato consolatorio, comunque una dimensione in cui si primeggia, in cui si conquistano leadership che nella vita concreta non avremo mai. Ma è questo probabilmente uno dei motivi per essere digitali. 800 24 00 24. Abbiamo già il primo ascoltatore, Luca, velocemente, poi passerò ai miei ospiti. Luca. Allora, ciao. Mi senti? Certo. Allora, io sono un forzato di digitalizzazione. Faccio il chirurgo, ero felicissimo con radiografie non digitali eccetera, mi sono ritrovato a dover imparare, mi ammaestrata ad usare apparecchi in cui non capisco nulla, perché purtroppo per il mio lavoro sono indispensabili, ed io alzo la bandiera degli udditi della non digitalizzazione, perché purtroppo il mondo va così. Ma ti dico la verità, ne farei volentieri a meno. Beh, i tuoi colleghi qualche secolo fa, per darsi una regolata di quello che c'hanno dentro gli esseri umani, non so, assaggiavano l'urina o palpavano e si limitavano a quello. Non voglio entrare nello specifico, ma un po' di evoluzione tecnologica ci deve essere. Preparati, perché già ho visto i nuovi sistemi tridimensionali che fanno delle mappe delle nostre interiora che sembrano un film a colori bellissimo, altro che le radiografie. Vedi proprio come sono dentro. Purtroppo già li uso, quella roba lì, il tridimensionale, lo devo già usare. Ma a colori, che si vede proprio bello, come sembra di metterci le mani dentro. Ma non mi diverto. Lo so. Tra l'altro, per mia fortuna, i miei vari tentativi di andarmene su internet, io non sono un navigatore di internet, io sono un naufrago di internet. E non trovo nemmeno l'isoletta con la palma, solo uno scoglio o magari gli squali. Non so che dirti, non voglio ammantarmi di cyberfighetteria per dirti, povero te, vivi la tua dimensione, vivila nel migliore dei modi, e mi auguro che i tuoi pazienti riescano comunque ad avere al massimo la perizia della tua professione, senza che tu poi abbia tutta questa affezione con gli strumenti digitali che oggi ti permetterebbero di vedere anche oltre quello che si vede semplicemente con il nudo occhio. Luca, abbiamo parlato, Matteo. Buongiorno a tutti, grazie dello spazio. Io mi considero digitale, ho 41 anni. L'altra faccia della luna rispetto al nostro chirurgo analogico. La maggior parte della mia vita l'ho passata utilizzando comunque strumenti digitali a 13 anni, quindi ormai tanti anni fa ho avuto in regalo il mio primo Apple II, un computer con 48K, ora stiamo parlando di giga, noi stiamo parlando di 48K di memoria, ho cominciato a utilizzare l'internet. Sei fortunato, il mio primo hard disk era di 20K, mi sembrava già avere una cosa che nessuno aveva. I primi hard disk erano di un qualche mega, i dischi... Io parlo di hard disk, prima che esistessero gli hard disk ancora parliamo di preistoria. I dischetti erano da 143K, vabbè, comunque, e quindi è da sempre che uso il mondo digitale, l'internet, prima che esistesse il web. E sebbene all'inizio mi piaceva la cosa un po' fino a se stessa, lo ammetto, con una forma quasi di feticismo, da tanti anni ormai vivo e utilizzo il mezzo digitale e la tecnologia molto come un mezzo, non come un fine a se stesso. Mi consente di fare cose che prima mi erano precluse, mi consente... Quindi tu ti consideri un digitale inconsapevole, nel senso non ti svegli di mattina e dici che bello, sono digitale, ma vivi normalmente, naturalmente, le possibilità del mondo digitale, come accendi la luce per illuminarti o apri il rubinetto e esce l'acqua. È un servizio che ti permette di lavorare. Mi sembra perfetta l'introduzione, mi sembra che casualmente abbiamo avuto proprio i due estremi della tipologia che vogliamo questa mattina cercare di definire. Presento gli ospiti. Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno. Paolo Ferri, docente di tecnologie didattiche e teoria e tech nei nuovi media dell'Università Milano Bicocca, è appena uscito il suo libro Nativi Digitali, edizione Bruno Mondadori. Saluto anche Paolo Magrassi, buongiorno Paolo Magrassi. Buongiorno a tutti. Autore di Digitalmente Confusi, Capire la rivoluzione o subirla, edizioni Franco Angeli. Ricordo che Magrassi per formazione è un fisico, poi si è occupato di ricerca, di sviluppo di software, analisi industriale, consulenza strategica e via dicendo, e ha scritto questo suo libro Digitalmente Confusi, che è un coraggioso e anticonformista pamphlet che proprio ci fa fare una riflessione sul fatto, sì, ma di cosa stiamo parlando? Mi fa magari una sua velocissima lettura delle prime due telefonate che abbiamo avuto, che sono due tipologie che ho intravisto comunque nelle fessure del suo libro. Sono due personalità che hanno a pari dignità nel mondo attuale, la cui sussistenza non può stupire nessuno. Il dottore, il medico sarà, la personalità qui rappresentata dal dottore sarà spazzata via, se posso permettermi di usare questa espressione. Sì, lui non lo sa, ma è già diciamo un morto che cammina. ne è fiero perché ha questa sorta di fierezza di essere d'antan, di essere uomo di un'altra epoca, però è molto ottocentesca la sua figura. Sì, diciamo, io mi sentirei addirittura personalmente di aderire in parte al suo atteggiamento se considero che questo non ce lo raccontiamo mai, ma se considero che in realtà la maggior parte, diciamo per dare un numero, il 90% di quel che circola nel mondo digitale è spazzatura, quindi cioè è pornografia, è film piratati, è chiacchiericcio vano, blogger demenziali, eccetera. Se il dottore prova una repulsione verso questo mondo sarà difficile dargli torto. Se il dottore invece trascura l'enorme potenziale che risiede nel restante 10% si sbaglia, a mio parere. Nei primi capitoli del suo libro lei è molto critico, ma ci possiamo andare del tu, mi sembra ci avevamo del tu, perché lei mi pesa. Molto volentieri. Eri molto critico rispetto a queste vergini vestali della banda larga, entusiasti, sembrava che l'Italia senza banda larga non potesse fare i passi avanti e tuttora si sta molto lavorando, ma mi sembra di aver capito col tuo punto di vista, cioè sì, se anche avessimo una banda larghissima continueremmo a fare le stesse cose che facciamo adesso, quindi attività ludiche, ricreative, non riprovevoli, ma non è questo il passo che ci si aspetta da un uomo digitale? No, non è questo. Ed è un inganno far credere al pubblico che semplicemente disponendo di un'infrastruttura la società crescerebbe. È un inganno che fa il paio con quell'altro, quello che riguarda per esempio la formazione. I nativi digitali non saranno privilegiati per il semplice fatto di nascere nel mondo digitale, perché un somaro con l'iPad resta un perfetto somaro. Quindi lo strato di fondo che deve sussistere di una formazione degna diventa condizione necessaria per poter utilizzare gli strumenti digitali non solo per intrattenimento burino, ma anche per far crescere la società. Quando dico far crescere la società non vorrei suonare bacchettone, credo nel libro di averlo spiegato abbastanza bene, ma ho in mente fenomeni come potenziare la democrazia, partecipare tutti all'amministrazione della cosa pubblica, curare i malati invece delle malattie, per dire una cosa che il dottore capirà, riconquistare i ragazzi alla scuola, perché ormai lo sappiamo se ne sono andati tutti, collaborare per produrre beni comuni, materiali o immateriali, cioè queste sono le possibilità, il potenziale che ci si schiude, ma è un discorso vanamente elitario raccontarci solo queste cose senza dire che il 90% invece per il momento è spazzatura e che l'Italia rischia di restare lì. Paolo Ferri invece è complementare il suo campo di lavoro a quello che sta dicendo appunto Magrassi come una sorta di profeta che parla nel deserto, perché Paolo Ferri studia invece, si occupa di formazione, sta analizzando questo nuovo reperto antropologico del suo sorgere, del suo primo crescere, che è il nativo digitale. Sei d'accordo Paolo innanzitutto con quello che è stato detto finora rispetto alla mitizzazione del digitale e il nativo digitale che tu stai studiando e analizzando, come si sta muovendo, come si sta comportando di fronte a questa grossa contraddizione? Dunque sì, la mitizzazione del nativo digitale o comunque del digitale la fanno gli immigranti digitali, cioè quelli che hanno vissuto, per così dire, l'emergere di internet, delle protesi digitali come qualcosa di particolarmente nuovo. Il nativo digitale non si rende conto di essere un nativo digitale, perché ecco, questo è fondamentale innanzitutto, sì. Sì, cioè entra in rapporto con questi schermi interattivi esattamente come entra in rapporto con il cavalluccio a dondolo, il tamburo o la televisione, cioè nel suo mondo esiste questo nuovo piano di realtà che è rappresentato dalle protesi immateriali e per questo appunto si costruisce un modo di vedere, pensare, comunicare che integra nella sua realtà anche il digitale. E molte delle mitizzazioni o i due interventi iniziali erano interessanti, proprio speculari, sono le posizioni degli apocalittici e degli integrati. In realtà i nativi non sono né apocalittici né integrati, sono perché sono nati dopo che internet è diventata lo strumento di diffusione della comunicazione, del sapere, dell'informazione. E quindi qui c'è un primo elemento da sfatare, per così dire. Non considerano la tecnologia una novità perché ce l'hanno da sempre. Il grosso problema sarà allora capire quando verrà il momento fatale in cui i nativi digitali avranno in mano gli strumenti e le leve per trasbordare il mondo concreto nel mondo digitale, perché finché, se non lo faranno loro e finché non avranno modo di farlo loro, il vecchio, antico e resistente mondo concreto mi sembra molto restio a scendere comunque a patti con quella che è la velocità, la fluidità, l'interconnessione e lo scambio nel mondo digitale. Ci sentiamo solo tra un istante dopo l'informazione della borsa, che prendiamo appunto con Paolo Magrassi e Paolo Ferri. Ok. on s'est connu, quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ciao Gianluca, sono Rossella, sono di una generazione un pochino più avanti con gli anni rispetto ai ragazzi che vanno a scuola oggi, ho 33 anni. Non credo che nella mia classe sarebbe mai stata ammessa questo rumore di sottofondo dei cellulari. Penso, se ricordo i miei professori, soprattutto la mia professoressa di latino e greco, credo che nessuno si sarebbe nemmeno azzardato a mettere le mani sotto il banco per rispondere ad un messaggio. Telefonini in offerta. Animali in cerca di cibo, qualcosa del genere. Rilassatevi signori, calmatevi, però c'era una lista apposta. Sì, ma rilassatevi, non è il pane. Questo è un paradosso intergenerazionale, per cercare di far capire che in realtà l'età anagrafica non corrisponde con la maturità digitale. Una signora che dice che mai penserebbe che uno strumento come un telefonino possa diventare strumento didattico, le dà solo fastidio che i ragazzi lo abbiano, ma è anche giusto, perché lo hanno semplicemente per far casino, per scambiarsi le applicazioni, per fare giochini, non ne vedono il profondo e poetico uso anche didattico e scolastico. Allo stesso tempo degli adulti, come dei bambini, fanno la gazzarra, come i bambini davanti al distributore delle caramelle gratis, fanno la gazzarra al grande centro commerciale per l'uscita di un nuovo modello di telefonino. Abbiamo al telefono, stiamo parlando di cosa significhi essere digitali, il numero è sempre 800 24 0024. Abbiamo al telefono Umberto, che è un po' che aspetta. Umberto, buongiorno. Sì, dottor Rincoletti, buongiorno, sono Umberto. Lei cos'è? Mi sente? Sì, la sento bene. Ecco, niente, stavo ascoltando la vostra trasmissione, ho chiamato per, a proposito della digitalizzazione, per apportare la mia piccola esperienza. Io ho 46 anni, ho una piccola ditta di catering su Milano, abito in provincia di Milano, però lavoro principalmente a Milano. E allora, premetto, io mi sono avvicinato alla digitalizzazione abbastanza tardi, perché a 35 anni io non avevo mai toccato un computer, dunque una decina d'anni fa. Poi trovandomi comunque spiazzato anche verso i clienti, verso i colleghi, così ho iniziato a fare dei piccoli corsi, e adesso con il BlackBerry per vedere le email all'istante, perché essendo una piccola ditta, non avendo una persona fissa in ufficio, devo comunque tenermi aggiornato con i clienti. Quindi per lei l'essere digitale, o vivere a suo modo la rivoluzione digitale, è essersi munito di un BlackBerry che le fa risparmiare giustamente la segretaria, e le mail le arrivano direttamente in tasca. È chiaro, Umberto, grazie. Fabrizio. Fabrizio, buongiorno, sono Fabrizio. Io sono un medico, e sono un medico digitale, perché sono assolutamente convinto che quell'altro collega non consideri tutto quello che c'è dietro, perché lui, escludendo il suo piccolo mondo dell'operazione chirurgica, non pensa cosa c'è dietro la carta, tutto il cartaceo che c'è dietro, la gestione di questo cartaceo in un ospedale diventa impossibile. Quindi ben venga questa cosa, pensa che addirittura ho fatto scrivere software che viene usato dalle ASL, io, perché sono talmente convinto che questo funzioni, che se fatto bene e semplifica la vita, perché non deve venire. Quindi lei anticipa ancora di più, oltre che lo strumento professionale vero e proprio, anche tutto il sistema, che poi questo favorisce la prevenzione, favorisce l'individuazione precoce delle malattie, è digitalizzato. Il grosso problema molte volte è la burocrazia che sta a monte un intervento di tipo clinico, di tipo medico. Certo, ma pensi solo a fare una radiografia. Io lo faccio digitale, la via mail, il paziente ce l'ha praticamente all'istante, subito. Cioè, e non c'è più tutto il tempo d'attesa. Una volta uno doveva andare all'ospedale, fare la radiografia. Guardi, mi ricordo un episodio di non molto tempo fa, nell'anticamera di un medico, una povera signora anziana che girava con un suo DVD in cui aveva le sue radiografie, e nessuno in quello studio medico sapeva come piffero potergliele leggere, e l'infermiera diceva: guardi, deve portarle stampate. E lei diceva: ma io dove le stampo? Gli hanno dato il DVD, giustamente, bastava che ci fosse un lettore, nessuno sapeva come leggere quelle radiografie di quella povera signora. D'accordo, ma il problema è che cioè, il mondo è andato avanti, siamo obbligati a avere la posta elettronica certificata, obbligati, come medici. possibile che loro non abbiano un computer per poterlo leggere e per poterlo inviare? Cioè, non funziona, capisce? Il mondo è andato avanti. Lei sta confermando quello che è un po' l'impressione che ho io sentendo i miei ospiti in questo momento. Siamo tutti perfettamente consapevoli di quale mutazione antropologica può essere per l'umanità l'entrata nella dimensione digitale, ma siamo altrettanto convinti che esista una forte resistenza da parte del vecchio, antico e teocratico mondo concreto a fare questa trasmutazione, questo passaggio. Ricordo i miei ospiti, Paolo Magrassi, autore di Digitalmente Confusi, Capire la rivoluzione o subirla, edizione Franco Angeli, e Paolo Ferri, autore di Nativi Digitali, edizione Bruno Mondadori. Paolo Magrassi, sei d'accordo con quello che dice questo medico, che in realtà molte volte la rivoluzione digitale o capire cosa significhi entrare nel mondo digitale non è semplicemente legata alla manualità o alfabetizzazione rispetto agli strumenti professionali, è tutto quello che c'è dietro che manca molte volte. Infatti gli economisti negli anni 90, quando la rivoluzione digitale, diciamo così, dispiegava le sue ali, hanno prodotto una grande quantità di lavori scientifici dai quali si dimostra quanto sia più importante il fattore umano, il tessuto in cui si innestano le innovazioni tecnologiche, che non queste. Ma io sogno un mondo che non credo si verificherà, un mondo mediatico nel quale noi non parlassimo più di digitale, che però è un termine molto comodo, evoca mondi evoluti, cool, trendy, eccetera, e comunque rappresenta bene un trend in corso. Preferirei che si parlasse di software, perché il software evoca più direttamente l'intelligenza collettiva, ed è questa la grande trasformazione che avrà luogo. Cioè l'intelligenza collettiva è quella che noi ci troviamo scodellata senza avervi dato un contributo. Sai, l'impressione è parlare digitale è qualcosa che può appartenere a tutti. Se parli software già sembra che vuoi limitarlo alla categoria degli sviluppatori, degli informatici. Questo è il problema. Non è un termine che mi si permetta di usare nel titolo di un libro, intendiamoci bene. È chiaro, non glielo fanno mettere. Il potenziale espressivo è superiore, perché così come quando noi nasciamo ci troviamo già pronto il linguaggio, le leggi, i codici e quant'altro, e nessuna di queste cose è stata fabbricata da mamma o babbo, ma sono preesistenti. E questi sono esempi per l'appunto di intelligenza collettiva, cose che l'umanità produce e che trascendono il semplice capitale umano esistente oggi. Quello che sta succedendo da una trentina d'anni, in modo acceleratamente esponenzialmente accelerato, è che il software ingabbia sempre più di questa intelligenza collettiva. Cioè il software viene prodotto da gente che noi non manco sappiamo chi è, ed è quello che dà luogo a tutte le mirabolanti novità, da quelle utili come quelle del medico, a quelle di puro entertainment come quelle che usano i ragazzini, e che sono il distillato delle competenze prodotte in modo sinergico da tante intelligenze singole. Questo è precisamente il potenziale che può trasformare il mondo se noi capiamo per il meglio, come fece l'agricoltura e come fece lo sfruttamento energetico nell'Ottocento, se noi capiremo come sfruttare questo potenziale e non ci abbrutiremo semplicemente giocando. Questa è una cosa che è stata detta anche dal presidente Obama un paio d'anni fa. Il presidente Obama immagine... in un momento molto difficile in cui deve giustificare al mondo anche il Nobel della pace. a fuor di popolo è stato attribuito. Il fatto che uno speechwriter arrivi a pensare a una cosa del genere, a metterla in un intervento del presidente, è inimmaginabile in Italia, nella cultura italiana. Sì, però ha fatto parte anche, diciamo, poi dell'alone di consenso che ha avuto all'inizio, il presidente eletto grazie ai nuovi media, il presidente eletto da Twitter e via dicendo. Diciamo che secondo me è un altro degli usi che vengono fatti dell'alone fantasmagorico del digitale, in questo caso è servito a dare consistenza e originalità a un presidente degli Stati Uniti. Però vorrei sentire un attimo Paolo Ferri. Paolo Ferri ha toccato Magrassi un tasto molto importante, ha parlato di divertimento, che io contrappongo alla noia. Un capitolo del tuo libro è proprio dedicato a quello che è il punto cruciale. Chi ha figli in età scolare lo sa benissimo: a scuola mi annoio perché le cose che mi piacciono, mi fanno divertire, ancora appartengono al mondo del passatempo, del divertimento, quindi il detestabile mondo che è antitetico al mondo dello studio. Sì, è quello che con un esempio succede a mio figlio tutte le mattine. Mio figlio ha 8 anni adesso, e tutte le mattine lui percorre circa 600 metri per andare alla scuola elementare, e in realtà percorre 30 anni indietro nel tempo, nel senso che lui esce da una casa piena di schermi interattivi, in realtà l'80% degli italiani ha un computer a casa e molti, il 150% degli italiani hanno un cellulare, quindi ce n'è più di uno, e si trova in un ambiente che è strutturalmente quello nel quale mi trovavo io. Aspetta che vada al liceo, poi mi saprei dire. Privo di schermi, e questo determina uno scarto violento tra quello che è l'istituzione scuola, a prescindere dagli insegnanti. Gli insegnanti sono quasi degli eroi oggi in Italia, ma l'infrastruttura della scuola è un'infrastruttura che non tiene conto del fatto che questi bambini sono nati in un mondo che prevede la dimensione dell'interazione attraverso gli schermi, e ne fa una parte integrante della vita. Quindi il nativo digitale è quasi un clandestino, un immigrato clandestino digitale a questo punto, quando va a scuola. Sì, perché poveretto si trova nella condizione di una condizione di spaesamento, nel senso che l'ambiente della sua vita normale, ma dico la metropolitana, piuttosto che la macchina col navigatore satellitare, piuttosto che il computer che usano il papà e la mamma, lì non ci sono, si trova un po' straniero, e questo a prescindere dalla buona volontà degli insegnanti che cercano di adattarsi a questo nuovo stile di apprendimento, non ne hanno gli strumenti e soprattutto non sono stati fatti sufficienti investimenti nella scuola per renderla adatta ai loro veri e reali abitanti. No, Paolo Ferri, guarda, preparati, mando un minuto di informazione del traffico, poi riprendo subito con te, e vorrei che te e dopo anche Magrassi mi diano, avrete pensato, avendo scritto libri, quali potrebbero essere le soluzioni, ma proprio in ordine di priorità, cose possibili, fattibili, non cambiare la mentalità di chi in questo momento ha in mano gli strumenti, perché sappiamo che è impossibile, ma dei piccoli passi concreti, basati soprattutto anche sull'iniziativa individuale, che possano perlomeno dare e schiarire questo universo che mi sembra piuttosto confuso e anche piuttosto pessimista nella sua conclusione, dei nativi digitali che vagheranno in un territorio straniero e ostile come appunto degli immigrati clandestini, in attesa di essere loro a dettare le leggi del mondo, ma chissà se ci arriveranno mai. Melog 2.0. .00 24 00 24, mi ero interrotto con Paolo Ferri, che è un docente di tecnologia didattica e teoria e tecnica dei nuovi media alla Bicocca di Milano, Università Bicocca di Milano, autore di Nativi Digitali, edizione Bruno Mondadori, un libro in cui analizza profondamente, attentamente, quello che è il difficile ma interessante cammino del nativo digitale, colui che già nasce con questa predisposizione all'uso degli strumenti di accesso al mondo digitale, però si trova davanti come un muro invalicabile quello che è il mondo concreto. Paolo, ti avevo lasciato con una domanda, ma vorrei aggiungerti una piccola provocazione. In questi giorni in rete è vivissima la protesta, e questo fa pensare anche con chi abbiamo a che fare, rispetto a quello che ha detto il vicepresidente del CNR, Roberto De Mattei, che a Radio Maria ha detto che la tragedia del Giappone sarebbe un'esigenza della giustizia divina. Ora, ognuno può avere le convinzioni religiose che vuole, abbiamo pieno rispetto, ma che il vicepresidente di un'organizzazione come il Consiglio Nazionale delle Ricerche dovrebbe essere il fiorfiore dell'attenzione sul progresso scientifico e via dicendo, tiri fuori che la tragedia in Giappone è quasi il frutto di una, secondo me, anche malletta volontà divina, quindi Dio ci punisce, ci manda i terremoti, non è che io vi rispondo il perché, il per come, il per quando, le possibilità di scientificamente ragionare sulle grandi tragedie, vi dico rassegnatevi che è il Signore che vi manda questo fulmine. Cosa ne dici? Beh, ovviamente è un esempio della arretratezza della ricerca italiana nei confronti di tutto quello che è il ragionare in maniera scientifica. A me fa ancora più sorridere questo sia qualcosa che circola in rete, ma nessuno del CNR ha preso posizione su questa dichiarazione. Poi hanno tutti paura che li licenzino, li hanno quasi massacrati negli ultimi 2 anni, per cui stanno zitti perché tengono il loro posto di lavoro. Ma ci sono fior di ricercatori, fior di scienziati, come possono tollerare questo? Che il loro vicepresidente dica ringraziate la giustizia divina se ci sono queste tragedie, qualcosa del genere. Purtroppo qualcosa di molto italico, non si prende posizione quando è in gioco in qualche modo il posto di lavoro. In questo caso andrebbero chieste le dimissioni istantaneamente, e questo sta circolando su internet. È un po' lo stesso di quello che dicevo prima, cioè non, guardarla in questo modo vuol dire fare la politica dello struzzo. Politica che peraltro, per esempio nella scuola, gli insegnanti non fanno, ma non hanno gli strumenti. Allora qualche consiglio pratico: portare per esempio a scuola il proprio computer. Ti rispondo, non lo vogliono. Ho provato a far dire a mio figlio: perché i compiti non li fai con il computer invece che scriverli a mano? Che perdi tempo, ti sguerci, mai nella vita scriverai più niente se non la tua firma. Niente, a scuola non vogliono. Non esiste. Ma succede anche a mio figlio. Però bisogna cercare di venire a capo di questa difficoltà. Io credo che nella scuola italiana ci siano tanti insegnanti che invece lo usano davvero, la tecnologia, hanno imparato con fatica dai migranti, magari non ma anche volendo. Loro sono clandestine, la usano a casa propria, dentro la scuola non possono portare nemmeno il loro bagaglio di competenze. Oh, bravo, il problema è che esattamente come al CNR ci sta un signore che dice che i terremoti sono il frutto della giustizia divina, purtroppo al Ministero ci stanno dei signori che non sanno quello che dicono, nel senso che per esempio a qualcuno no, ma qualcuno sì, perché la banda, non la banda d'affori, ma la banda diciamo digitale, la banda internet nelle scuole italiane non c'è, perché non c'è un piano per inserircela. È stata la prima cosa che ha fatto Clinton all'epoca sua, quando voleva che si diffondessero le autostrade digitali, è stato quello di finanziare gli edifici pubblici perché venissero cablati, perché venissero connessi. Ecco, sentiamo un attimo, che siamo proprio in conclusione. Paolo Magrassi, ricordo, autore di Digitalmente Confusi, Franco Angeli. Ecco, Magrassi, anche tu hai le formule sono difficili, soprattutto se vogliono essere sintetiche. Rispetto a quello che dice Ferri riguardo la scuola, un primo campo, un unico campo, un punto d'attacco in cui si potrebbe operare concretamente. Una volta stabilito che le prime generazioni native digitali sono comunque confuse, sbandate, come dicevate voi, e non ci vedo molti rimedi, per invece dare sollievo a quelle future, io proporrei, nel libro ho fatto anche dei conti, di ingaggiare i ragazzi a scuola sulle stesse piattaforme che usano a casa per il cazzeggio, se mi passate il termine. Quindi io avvierei immediatamente un programma che portasse alla consegna di ogni studente italiano di un tablet PC, sul quale installare software didattico, digitalizzare tutti i libri, formare gli insegnanti, e in 3-4 anni noi avremmo una scuola completamente digitale, avremmo fatto cadere la barriera tra la vita normale e la scuola, esattamente come il digitale ha già fatto cadere la barriera tra la vita produttiva e casa per tutti gli altri lavoratori di concetto. Cioè, piuttosto che nasconderlo come la nostra generazione nascondeva la fionda o il coltellino in tasca, potrebbe tenerlo sul banco e essere lo strumento di lavoro. Sì, con 4 miliardi di euro, il costo della porta aerei che ci siamo costruiti 5 anni fa, l'MLM, senza nemmeno mai parlare. Che sta lì ferma, poi manco la usiamo. Non la usiamo, non si sa che fa. Paolo Ferri, sei d'accordo con quello che ha detto Magassi? Sono molto d'accordo, la porta aerei costa miliardi, ma costa 4 miliardi, ma invece gli F-35 che abbiamo comprato ne costano 13. Io ho fatto dei conti concreti per la digitalizzazione della scuola italiana, da un punto di vista infrastrutturale, batterebbe la metà di quello che è stato speso per gli F-35, che sono questi caccia che distruggono una regione. E anche se ne compravamo invece che 130, 65, probabilmente la difesa del territorio nazionale era garantita. Qui proprio si manifesta la violenta resistenza degli immigranti digitali nei confronti del nuovo che sta avanzando, che è migliore, perché il progresso esiste. Grazie Paolo Ferri, grazie Paolo Magrassi. Mi sembra che l'argomento sia talmente propenso ad essere sviluppato che presto vi richiamerò. Prendo questo impegno. A domani. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.